carri tentato il greco gusto che rifiutò la pace quari non è al nostro campo in vittore con notturno assalto al fier contrasto e con l'oste nemica e per mia sorte dai donna sublime a cui non lieve scuol servia di scorta questa in segno di fede cui traggo mil di italiano al piede amor celite mino ah son pur queste le bramate sembianze d'Arianna che adoro non ti vantar superbo quel tuo ciglio altero di me più assai trionfa quindi al tuo piede oggetto la mia vittoria e seco per innalzarti al calamo ed al trono t'offro un amante ti do un mondo in dono offrine un altro che le mie brame odia e qual fia questo la tua morte o la mia e tanto dunque ardisce il tuo sdegno superba ti sovvenga Arianna che tutto può tener qui tutto dice sovvio taranno addempi tu vincitor veloce tutte le negre brave il pieme cinna la più vile catena i miei prieghi d'ognuno la mia forza vincitrice squadre un re la chiede ogni squadra dal regno non risponde condannando d'ardir pensa Arianna che moglie sono che hai il forte niente mi vuoi il mio sonno già vedi vedi che sono felice che io sono sì vita mia e tu un mar di pianto